Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti Diaries of Hero, direttamente da Londra, anche se con radici in buona parte italiane. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del CD Behind the Mask, come primo che è andato in onda. Titolo? Behind the Mask. Coinvolgiamo anche la parte inglese della vostra band, vale a dire Jonathan, chiedendogli your experience during the recording sessions and what are the guidelines that have also formed this CD? Well, was that too loud? It normally started off in college. We all got together in college. We started playing. We were making the songs through when we were doing a degree. So it was, the time it took to do it was like 2.5 years. So we did a song, 3 songs a year, and then the 4 songs at the end of it, blah, blah, blah, blah. And then, where we recorded was Boogie Back Studios with Nick Hunt, who was a wicked sound guy, and it was cool. The house was wicked, wasn't it? Yeah, the house was like an abandoned Victorian house. Yeah, and the drums were in the living room, and we recorded them in there. The desk was in the attic. Yeah, the vocal room was in the bathroom. It's true. Well, the amount of strings I snapped, during mid-pump was, a lot. But it was very good. I did enjoy it. Yeah, it was fun. Certo, veloce. Per i nostri ascoltatori più che altro. No, praticamente Luigi dice che ci siamo conosciuti in college. Cioè, all'università abbiamo fatto tutti lo stesso degree. Sì. La laurea in musica e composizione. Ci siamo incontrati in classe. Praticamente scrivevamo i pezzi mentre studiavamo, quindi nel frattempo non avevamo neanche un lavoro, quindi avevamo pochi soldi, quindi per registrare era sempre un problema. Infatti abbiamo registrato il disco a puntate, tipo 3 pezzi una volta, 3 pezzi un'altra, poi 4 uh-huh. pezzi un'altra, insomma quando ci si aveva i soldi. Dopodiché lo studio dove abbiamo registrato era Boogie Back Studios con un ingegnere del suono che si chiama Nick Hunt, che è un veramente veramente bravo, un gran uomo. Ha lavorato anche con Bruce Dickinson, ha lavorato with The Cure as well, non a caso, insomma, ecco. Ha lavorato con un sacco di gente lui, ed era molto molto bravo, un po' un personaggio, dovevi stare dietro le sue routine alcoliche soprattutto e altro anche, però ci dava dentro, era molto bravo. E la casa praticamente era una specie di casa, lo studio era in una casa vittoriana abbandonata, praticamente trasformata in uno studio dove la batteria era nel salotto, registrare la voce invece era nel bagno, piuttosto che il mixing, il cervello dello studio era nell'attico. E poi una cosa sì che non ha detto, faceva un freddo allucinante, perché d'inverno lì a Londra con la neve e tutto, ci mettevamo le mani sul bollitore del tè per riscaldarci, mentre uno faceva una solo, l'altro metteva le mani sul e poi ci si scambiava. La vera vita dei rocker. Sì, dai, è stato divertente. Però un altro c'era uno che ci faceva i panini al piano di sotto, molto bravo. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Dunque, la prossima canzone, you wanna introduce the next song? What is the next song? La prossima canzone è Shine Upon the Sun, che è il nostro singolo, per cui il video dovrebbe uscire a giorni, praticamente. Shut In studio ancora con i Diaries of Hero, capitolo recensioni musicali, quali le più importanti e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato messo in risalto. Ma come per tutte le band ci sono state recensioni più buone e meno buone, dipende anche forse sì, dipende anche molto dal paese in cui è stata recensita. Per esempio le migliori sono arrivate dagli Stati Uniti, a tal punto che chiunque abbia fatto questa recensione ha anche poi pompato tanto i nostri pezzi. Addirittura abbiamo un paio di fan club adesso negli Stati Uniti. Quindi quello è stato quello, guarda, quello è servito tantissimo, il potere di internet, incredibile. Invece in Italia anche lì qualcosa, ne ho avuto un paio su Rockhard, una veramente buona in cui era quando avevamo recensito, era soltanto il... abbiamo dato tre pezzi, Carlo, mi sembra. Erano sette. Sette pezzi. Non avevamo neanche fatto il mastering. Erano giusto mixati. Poi ci sono sì alcune, soprattutto nei siti metal, quelli specializzati, in cui magari la gente è più attaccata a un certo tipo di metal, un po' più tradizionale. Sì. Se vogliamo, allora lì ogni tanto qualcuno sorgeva un pochettino il naso, quindi dipende molto da chi ti fa la recensione, direi. Prossima canzone? La prossima si chiama Mirror House, che è la mia preferita, devo dire, dell'intero album. Sì, c'è un bel intermezzo, molto molto molto divertente. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con i Diaries of a Hero, rimanete ancora su Radio RCS.